就嘛一下子他他他就嘛就要出去一起就嘛一个口子哎不好吃了哎不要吃了哎不eravamo un secolo, lo sentivamo. Come va? Tutto bene, sì? Diciamo che diciamo sì, ma non ne sono sicuro. Sto sempre aspettando per una visita, per cui io non so cosa dire. Cioè, apparentemente quelli mi sto bene. Adesso stavo anche lavorando via a casa. Ho acceso il baracchino e l'ho nascosto. E appunto ero qua. E ho voluto rispondere alla chiamatina, dai. Andiamo subito, Maria, e sto aspettando che mi chiamino dall'ospedale perché mi devono fare un controllo, capite? Ah, speriamo che tutto vada, che sia a posto. Dice, ma che io mi... che io sono malmesso, adesso si sono attaccati questi dolori a tutto il bacino, anche il ginocchio, le mani, le dita, tutte le articolazioni, sono già 2 o 3 mesi che non riesco nemmeno a sollevare i bracci in alto, cioè i tendini più malandati dei bracci, capito? Se non riesco a cazzare la cara mi devo mantenere e i pigliuri bracci questi fatti poi li alzare all'anchi io sto tutto malandato giù vista qua vista là i dolori ci sono e non c'è niente da fare e il bacino è tutto da quelle fratture di quella caduta dell'albero, ho capito? E poi il resto anche i tendini delle braccia la vecchiaia giù, la vecchiaia è e non c'è niente da fare, pigli una pastiglia per una cosa te ne fate venire un'altra, boh, bisogna tirare andare avanti così è la bella meglio, cosa vuoi fare, la vecchiaia è carogna purtroppo, però già ce ne sono che stanno peggio di me, dai. Beh certo, io vado, no, io... E non hanno, sono stato operato 2 volte, se puoi immaginare, per cui la seconda volta era anche una cosa seria. Poi ho fatto la cura, anzi sono stato operato, ho fatto la cura e poi ho fatto anche le analisi, adesso mi dovrebbero chiamare per il controllo, per vedere com'è andata, capito? Passo già 2 mesi che sto aspettando e ancora non me l'ho chiamato, ma avrebbero dovuto chiamare in agosto. Invece siamo già alla fine di settembre e ancora niente, lì sono troppo lunghi, troppo lunghi gli appuntamenti, per carità, cazzo, non ne parliamo più. Io gli appuntamenti un macello, cazzo, 7-8 mesi oppure 1 anno, cazzo, ma come si fa, cazzo? Ma che mostra uno anda a lo chiama a fare un controllo, cazzo, non so chi, boh. Però è pieno, non ce n'è gente, non ce n'è, e chi c'è bisogno di navigare e travagliare. Poi dirà, certo, travagliare giù, lì se non navigare. Infatti sono andato, ma come mai ancora non mi avete chiamato? La gente che dice no, non abbiamo lavorato nel mese di agosto, erano tutte in ferie. Dimmi tu che se passiamo all'ospedale i medici devono andare in ferie, vuol dire, o perlomeno va in ferie, ma a turno ce ne deve essere sempre il medico che deve curare il malato, no? Per cui è andata così. E io infatti in questo tempo sono stato operato in maggio, sono stato operato, poi il 25, il 18 ho finito la terapia che mi avevano prescritto, poi il 25 mi hanno chiamato per fare le analisi, per farmi il pre-recover di nuovo, per il controllo, e invece sono passati già 2 mesi, e ancora 2 mesi dopo domani, e ancora non mi hanno chiamato. Aspettiamo, quello lo ripeto. Vabbè, ci andrò io di nuovo, uno di questi giorni ci vado io, questa settimana, vediamo, fino a metà settimana, se non mi chiamano, ci vado io di nuovo e sentiamo cosa mi dicono. Ah, dimmi una cosa, ma avevano operato all'appendice, mi sembra a te, quando è, l'anno scorso, o quest'anno, l'anno scorso è. Oh, quello è 9 anni fa, l'appendice 9 anni fa, o no, 8 anni fa, all'appendice. No, ma avevano operato prima la protesi, dopo l'anno la vescica, dunque, solo che la protesi è tutta a posto. La vescica invece c'era un problema serio e me l'hanno tolto il problema, però bisogna vedere se poi si è riformato. Infatti quello che sto aspettando che mi chiamino per il controllo per vedere se si è riformato il problema, capite? Ah ecco, io pensavo che fossi da quell'operazione che avevo avuto prima, adesso invece ne ho altri problemi, macello, ma speriamo che tutto sia andato bene, io per carità, ma una cosa ti dico io auguro che le cose vadano sempre bene, però a un certo età giù, come si fa ragazzi, come fai a guarire completamente, è impossibile, se magari guarisce una cosa te ne fa venire un'altra, capito com'è la faccenda, purtroppo è così e non stiamo da soli, Oh, c'è la fila, non fanno in tempo a liberare un letto di un malato che c'è subito un altro pronto, anzi ti buttano fuori prima del tempo, proprio perché c'è in arrivo magari un altro malato che deve essere ricoverato, purtroppo è così. Ma a me hanno operato a mia nuora, hanno operato alla CSFL, ed era quasi 15 giorni, battevo 2 o 3 giorni, faccio l'analisi e la mandavo a casa, dopo diceva torno ad andare per spolato controllo, era più di un mese così, poi l'hanno chiamata per operare, l'hanno operata e dopo 4 giorni la mandano a casa e si sentiva sempre male, c'era un buco, tutte le infezioni, aveva preso l'infezione, gatta. È andata all'autoressa così a far controllo, l'autoressa l'ha visto, l'ha mandato subito a pronto soccorso ed era tutta la ferita in fuccia, ti puoi immaginare come sono, ma quando mai deve essere una cosa così giù, ti puoi immaginare a che punto stiamo arrivando, purtroppo così, cosa mi dica, o sono bene servizi oppure sono incapaci, non lo so, cosa mi dica, è una cosa vergognosa, però che uno debba aspettare intanto tutto quel tempo. La prima volta per la prossima mi hanno fatto aspettare 9 mesi e mezzo prima di chiamarmi per ricoverare, 9 mesi e mezzo, non un giorno, no, 9 mesi e mezzo. Mi hanno operato lì e poi sono dovuto ritornare dopo 10 mesi che avevo questo problema alla vescica. Dunque mi hanno operato anche lì e adesso vediamo com'è andata, non lo so, una cosa vuole che dica, speriamo bene, però da, capisco anche l'età, tutto quello che vuoi, però è una cosa vuole che dica, è una sfortuna e basta, dopo tanti anni di lavoro che uno arriva alla pensione e non se la vuole in maniera tranquilla. Non si da solo lui, non si da solo, purtroppo siamo arrivati a questo punto, non lo so, io non se ne capisco per niente, che fanno il mare di gente, non lo so a che punto stiamo arrivando, ragazzi, non lo so. Dice che ci mancano medici, ci mancano infermieri, e un cosa l'altro per cui le cose vanno a lungo, per cui non, quando mori a t'avvisa, le capitrice lo faccio, a maschere dai. Ma speriamo bene allora giù, io spero che tutto sia tutto a posto, quando ti chiamino e è vero, e si ama così tranquillo, per carità. storia. Anch'io sono malandato, non ti chiedere giù, anch'io sono malandato, però grazie a Dio, questi dolori ho io, tutto il bacino che quando mi seguo, mi alzo, non riesco a camminare. Se addirittura quando vado a sedermi in macchina non riesco a sollevare la gamba, devo aiutarmi con le braccia per metterci la gamba dentro la macchina, si può immaginare che possa arrivare, poi lo parliamo sulle scale, noi non posso prendere nemmeno un cartone d'acqua, portarmi lassù, vedo un po', insomma, ma comunque, che cosa per fare? Pazienza, pazienza gli anaremmo e per cui, e non puoi fare niente, ecco, i dolori ci sono e ci sanno, è inutile che ti butti di medicini qui e là, magari ci sarà una cosa e ne fate nemmeno un'altra. Siamo arrivati a questo punto. Purtroppo sì, purtroppo è così, ma comunque speriamo. Speriamo tutto bene, quello che si dica di Giovanni, d'altronde capisco che c'è gente che sta peggio di noi, non ci sono dubbi, questo sì, però a questo punto, ad esempio, avanti ieri, sabato, è rientrato mio fratello che era a Cagliari, che l'hanno operato al femore, l'hanno operato, gli hanno messo una placca, gli hanno messo il titanio e poi c'è l'ala, gli hanno aperto il fianco del femore, gli hanno tagliato l'osso, poi gli hanno infilato un ferro dentro, gli hanno infilato il titanio e poi c'è l'ala. Si può immaginare che aveva sempre questo dolore, anche lui era parecchi mesi, ma mesi aspettando, che non riusciva, era diventato anche dopo, perché non riusciva più a camminare dal dolore, che aveva già il bastone, si può immaginare. E adesso il giorno 17 l'hanno chiamato, cioè è andato a casa, l'hanno operato e c'è stato 5 giorni, adesso è rientrato e è a casa e come la scelta, vediamo un po', speriamo che si metta a posto anche lui, e adesso, ma quando è già guardata tutta un'altra diversa cosa, Giovanni? Quella è un'altra cosa, però speriamo che anche lui si sia andato bene, che si rimetta in sesso. Oggi ti devo lasciare che sta venendo gente, sta chiamando mia moglie, perché mi ha fatto veramente piacere giù, vero, noi salutami in casa e sperando di risentirci ancora sempre in ottime condizioni giù. Auguroli ancora che tutto vada bene. Grazie del contatto giù. Ok, ci sentiamo giù, buon proseguimento, auguroli ancora. Ok, grazie, grazie, auguri anche a te. Speriamo di sentirci presto. Io di solito accendo tutte le sere, almeno per andare alla radio, su questo canale 10, dove siamo adesso. E tante volte passo anche sul 23, ma non c'è mai nessuno, e allora me ne scendo giù, o mi guardo la televisione, o mi accendo il computer, insomma, vedo di passare il tempo così. Vabbè, ciao di nuovo, ciao Maris, grazie a te del contatto, dai, alle prossime, ciao, ciao Maris, saluti in casa, ciao. Mi stavo spazzolando e mi sono fermato sul 10 così a fare una chiamatina così, ma se mi ha trovato mi ha fatto veramente piacere. Ok, ciao Giù, salutoni ancora, ciao. Ciao, Giovanni, grazie, ciao.